piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Allo Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia si gioca Napoli-Juventus. Per la prima volta dopo 72 edizioni della Coppa Italia il trofeo si assegna in uno stadio a porte chiuse. Misure anti-Covid, ce ne saranno altre che potrete vedere nel corso della partita, in particolare per quanto riguarda la premiazione, che sarà una sorta di premiazione self-service, perché non ci sarà nessuno a consegnare la coppa e le medaglie ai calciatori, che dovranno fare da sé, prendere le medaglie e metterle intorno al collo. Entrano anche con le mascherine, si sistemano in panchina quelli del Napoli, stanno per entrare le due squadre che dovranno entrare, appunto, a proposito di queste misure anti-Covid delle quali abbiamo parlato più volte, da ingressi separati, e poi si ritroveranno al centro del campo. È stato un evento anche per me, che normalmente non sono interessato al calcio, non perché voglia fare lo snob, perché non mi hanno educato così a casa, casa mia non si parlava di calcio, quindi non so nulla del calcio. Però ieri è stato un evento. Avete sentito l'inizio della telecronaca della partita Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, su Rai 1. La telecronaca era di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, però c'era una particolarità. In televisione si vedeva chiaramente che qualcosa non era come la consuetudine. Il pubblico non c'era. Non è la prima volta che si gioca una partita senza pubblico, prima lo si faceva per motivi disciplinari. Poi in questo caso Rai 1 aveva pensato di rimediare all'assenza di pubblico per chi sta a casa, per i tantissimi spettatori che hanno guardato questa partita da casa, che non aveva probabilmente per loro senso guardarla con gli spalti vuoti, come si vedevano vuoti quegli spalti quando si usava una camera molto stretta sulle alcune fasi del gioco, si vedeva che gli stadi, lo spalto era vuoto, i sedili erano vuoti, però nel totale dello stadio si vedevano delle bandiere che si agitavano, oddio, un po' strano, sembrava una sorta di gioco coreografico in una rappresentazione di piazza delle grandi dittature del passato, del presente e del futuro, tutti con la stessa bandierina colorata che l'agitavano. C'era un agitare di bandierine, al centro bandierine rosse, perché lo sponsor era la Coca-Cola, quindi erano le bandierine dello sponsor, poi dai due lati bandierine azzurre, mi sembra bandierine bianco-nere, per rappresentare le due squadre, poi ogni tanto cambiavano le bandierine, apparivano bandierine verdi, insomma c'era un pubblico disciplinatissimo, ordinatissimo, tutti uguali, non si vedeva una faccia, erano solo bandierine a sbandierare. È stato un po' ridicolo da guardarlo, perché dopo un po' dava anche fastidio, non seguivi il gioco, vedere queste bandierine che sbandieravano. Infatti i social sono pieni di meme, di persone che mandavano immagini ridicole, sovrapponendo cartoni animati, mettendo supereroi volanti in questo stadio in cui avveniva qualcosa di singolare, di strano. Guardate, una partita trasmessa televisivamente fa parte di una delle grandi cerimonie dei media. A un certo punto si stabilisce uno spazio sacro, che è sacro non tanto perché lì avviene qualcosa di memorabile, che è una grande partita, e questo può avere senso per le persone che da casa vanno lì e partecipano di persona, con veemenza, con impeto, con carne, con sangue all'evento, ma ancora di più è reso sacro questo evento perché è ripreso, perché le persone sanno che da casa potranno dare un segno, una partecipazione a questo evento, anche lanciando dei fumogeni, anche scavalcando gli spalti, anche accoltellandosi, tirando bombe, mettendo striscioni con insulti, con frasi razziste, che comunque partecipano, sono al centro di un grande spettacolo e sono, diciamo, gli officianti di una grande cerimonia. Ieri tutto questo non esisteva. È una bella partita, bella, brutta, non so, non posso giudicarlo io, che non ho strumenti tecnici per farlo, né culturali, però era strano, era qualcosa di mortifero. E immaginavo il punto di vista dei giocatori, che giocavano senza pubblico, senza gente che li incitasse, che li insultasse, che facesse sentire comunque che c'era una partecipazione, che loro fossero gli eroi al centro di un'arena. Sì, li guardava tanta gente da casa, ma non era esattamente la stessa cosa. Ora, devo dire che, partendo da un punto di vista tecnico, l'effetto non era un granché, potevano fare anche uno sforzino in più la Rai, anche perché è stato dato modo questa mattina di vedere un signore che ha un canale YouTube Marchese Bianconero, che ha fatto vedere la simulazione anticipata di questa partita che lui ha ricostruito con un giochettino che c'è sulla PlayStation, un giochettone PES 2020, che è uno mi sembra dei tanti giochi di simulazione partite di calcio. Beh, era meraviglioso, si deve a un pubblico reale, realistico. Era molto più bello vederlo sulla PlayStation che negli schermi di Rai 1. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quello che vedete è surreale per due motivi. Il primo perché PES 2020 è tornata. La seconda cosa che vedrete sicuramente adesso è una partita, un pronostico con uno stadio pieno di persone, di rumori, di visi, di volti, di esultanze. Cosa che non vedrete chiaramente 17, però mi piaceva tenerlo così anche perché non c'è effettivamente un modo per togliere tutto ciò, quindi un minimo di normalità la voglio portare io in modo virtuale. Quindi questa è la finale di Juventus-Napoli Coppa Italia che arriverà 17 giugno e questa è la formazione che io ho messo in campo. Ronaldo si gira subito, porca di quella, che gol! Cristiano, esiste una differenza sostanziale tra lo spettacolo messo in scena dal signor Marchese Bianconero e quello che abbiamo visto su Rai 1? Beh, esiste la differenza che i giocatori almeno erano in carne ed ossa, la partita faceva parte di un calendario, qualcuno ha vinto qualcosa, da casa hanno bene o male partecipato. Però rendetevi conto che in un momento in cui sono state fatte proteste accorate, prese di posizione sul fatto che la gente non potesse pregare collettivamente, quindi un rituale collettivo, come poteva essere seguire una messa, seguire una funzione religiosa, doveva essere fatto da casa, distanziato. Beh, non so quanti oggi stanno rendendo conto che il più grande, potente collettivo rituale che prevede la partecipazione fisica come momento di affermazione della sacralità di quell'evento è stato annullato. In Italia abbiamo messo le bandierine, forse miglioreranno. In Germania hanno già pensato a dei cartonati, il pubblico può comprarsi un cartonato per 19 euro con la sua faccia e lo mettono sullo stadio. In Giappone, che sono più raffinati, stanno studiando un'app dove da casa tu hai una tastiera con scritto strilla, urla, insulti, sputacchi, fumogeni. Pigiando da casa forzatamente, realmente lo stadio si anima di questi effetti con grandi altoparlanti, grandi effetti virtuali. Tutto questo al momento è una necessità che procede dal lockdown, dall'emergenza Covid. Ma pensate voi un futuro in cui il calcio possa essere rappresentato in questa maniera, con sempre meno partecipazione, quindi meno piacere ma anche meno rischi da parte del pubblico? 800240024, questa è la domanda che pongo a Ivan Zazzaroni, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Direttore del Corriere dello Sport. Come parli bene. Ma ognuno... piccolo particolare che non ho sì. Che non mi è piaciuto. Ti ho detto una cazzata, sì. Più di una, ma io sono no, dimmi, che ne so. Io non ho mai visto una partita in vita mia. Chiaramente era un paradosso il tuo, quando hai parlato del pubblico presente che tira fumogeni, Fabio entra in campo, produce che so, aspetti secondo me inquietanti, e io la chiamo disintossicazione questa, sinceramente, siamo in fase di emergenza, questo è evidente, però un pochino di vuoto a me non dispiace, è che noi non siamo abituati. Quindi a questo. Quindi tu vedi, vedi uno strumento catartico in queste partite, assolutamente, diciamo. Assolutamente, è come la quale del tifoso violento, dice vedi adesso ti stai Gianluca, un attimo è così, a parte che è inevitabile perché è imposto, però il problema del vuoto, il calcio se lo sta ponendo da un sacco di tempo. Ti faccio qualche esempio, in uno stadio portoghese, lo Sporting Lisbona, hanno messo le seggioline colorate per dare l'idea del pieno. A Udine hanno imitato con le seggioline l'alternate rossa, bianca, blu, e tu hai un'idea di pieno quando il pubblico non c'è, cioè il pubblico magari lo riempie per metà o per un quarto lo stadio. Ma in Germania quindi, ha messo i cartonati, peggio di così. Sì, cioè. ma anche da altre parti in Italia hanno messo i cartonati, a Trieste hanno messo i cartonati, cioè non è un'idea originale loro, noi arriviamo sempre primi in queste cose. Questa non è un'idea della RAI, è un'idea della Lega che organizza la Coppa Italia, ed era un tentativo per vedere di... mostrare qualcosa di diverso, lo fanno anche in Spagna perché è un'azienda norvegese, si chiama Bildt, sembra un codice fiscale, che fa queste cose. Hai detto giusto, in Giappone hanno trovato soluzioni, perché abbiamo paura del vuoto, cioè tu hai visto anche, non so se l'hai visto, perché conoscendoti temo che tu non abbia visto, alcuni programmi televisivi in cui manca il pubblico. Sì, questi sì, l'ho visti, come no, certo. Manca manca tanto, evidentemente, ma cioè ti sembrano impoveriti, ti sembrano, è così il calcio, e ieri hanno tentato. Sì, però mi dà anche cosa. L'impressione che manca tanto perché è un nostro bisogno emotivo, però non cambia niente, perché il talk rimane lo stesso, senza gente, tanto sono clac, tu sai benissimo che frequenti gli studi, sono dei poveretti che prendono dai centri anziani, li portano lì, danno due tartine e un cappuccino, e quelli tutti contenti battono le mani, quello è il pubblico della televisione. Battono comunque le mani, a prescindere. Si mettono il vestitino della domenica. È quello. Nel talk lo posso anche accettare, anche se sono dei talk che vivono di queste cose. Nei programmi di varietà, che io ne ho visto uno l'altra sera per 10 minuti di Carlo Conti, in cui non è presente il pubblico, c'è questo studio completamente vuoto e 6 ospiti, beh, insomma, ti dà un'idea di impoverimento. Da tristezza, quindi, certo, sì. Ti dà tristezza. E noi non siamo abituati, non l'accettiamo più. Cioè noi vogliamo però, scusa, il pubblico a uno stadio non è una... Spiegami, perché mi dai a questo punto informazioni per me fondamentali. Dimmi. Io abito lungo Viale Angelico, vedo la transumanza della gente che va e torna allo stadio durante le partite, vedo di tutto, vedo quelli scalmanati con le bandiere, vedo anche famiglie, coppie, bambini, anziani. Quindi è variegato, non si può radicalizzare e dire allo stadio vanno soltanto quelli che fanno casino. Certo. Ecco, ma certo. Questo pubblico variegato va a partecipare a un grande evento cerimoniale, segue la partita, ma la segue in un momento fantastico in cui non soltanto segue la partita, ma questa partita è al centro di un'attenzione mediatica, quindi è doppiamente protagonista. Rimanendo a casa, non c'è un vuoto anche proprio di necessità di avere una possibilità di manifestare il proprio culto, la propria fede? Ho capito Gianluca, come però, si fa? Però adesso siamo ancora in fase di emergenziale, di post-Covid, di protocolli, alcuni anche assurdi. Ti faccio un esempio nel calcio, entrano le squadre separatamente. Solo che dopo pochi istanti poi si confrontano faccia a faccia senza mascherine, cioè fammi capire la differenza, cioè perché prima... Cioè quando si sputano addosso, quando si marcano stretti, quando si zompano addosso. Magari non si sputano addosso, ma si zompano addosso. Quindi ci sono tante cose abbastanza paradossali in questo post-Covid, oppure chiamalo come ti pare. È vero, sì, hai ragione, cioè manca tutta questa cerimonia, però siamo obbligati. Io ho trovato abbastanza divertente e singolare il fatto che il telecronista si chiamasse Rimedio. È tutto un rimedio. L'hanno scelto apposta, secondo te? L'hanno scelto apposta, guarda che bravo, ma hanno scelto apposta lui probabilmente perché siamo in un calcio rimediato, cioè come la chiamano New Normality? Chiamala New Normality, chiamala come ti ecco, pare. Però tu hai detto una cosa all'inizio che mi ha fatto riflettere, mi hai detto è un momento di, diciamo, decontaminazione, di purificazione, se ne stanno un po' tranquilli, ma secondo me... si attizzano ancora di più, perché per la loro è un'astinenza, quelli che andavano proprio perché col desiderio di passare un momento epico, adesso lì dai l'app giapponese che possono lanciare le bombette e fare gli strilli per via virtuale, o se no questi come fanno? È un'astinenza. Quelli hanno osteggiato la ripartenza del campionato, quel tipo di pubblico, diciamolo, non definiamolo ultra, diciamo curvaioli, chiamalo come ti pare, cioè quelli che vanno comunque per avere una presenza molto attiva anche nella partita. Io ti dico sinceramente, siamo a un calcio primitivo, nel senso che anche ieri, se tu hai sentito, c'erano queste urla dei giocatori, di Buffon che non ha mai smesso di urlare. A me piaceva, ti dico sinceramente, cioè mi ha riportato a quando si giocava a calcio da ragazzini. Ha riportato in primo piano le voci dei calciatori, non essendoci altre voci. Ha riportato in primo piano il calcio. Noi ultimamente, negli ultimi anni, con la televisione tutti i giorni, eravamo abituati a guardare il contorno e lo striscione, a sentire il coro razzista e segnalarlo e sottolinearlo e gli episodi disciplinari. Oggi, per poco tempo, sicuramente me lo auguro, perché è chiaro che gli stadi, come i teatri e il cinema, devono essere pieni, sennò siamo al disastro. Tornerà anche il pubblico, evidentemente, però oggi secondo me io mi concentro sull'atto in sé, sulla partita. È chiaro che inizialmente non è particolarmente divertente, ed è altrettanto chiaro, parlando con chi era ieri allo stadio, che si avvertiva un po' di noia, nel senso che comunque il rumore di fondo era monotono, sì. Esattamente. Però è sempre la stessa cosa che girava, capito? Sì. Dobbiamo accontentarci. In un videogioco, certo, sì. Allora, fermiamoci soltanto un attimo, Ivan, che devo dare la linea. Ci sono già molti ascoltatori che sembra che invece sono entusiasti, si sono divertiti molto di più. Poi cercheremo di capire perché. A tra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Rock. 800240024, stiamo parlando della ricostruzione artificiale attraverso realtà aumentata del pubblico allo stadio. Fenomeno già avvenuto comunque, però in ogni caso per la prima volta presentato in una partita importante, finale di Coppa Italia, la partita Napoli-Juventus, al pubblico di Rai 1, in cui il pubblico era rappresentato, il pubblico allo stadio, delle bandierine che si agitavano. Ringrazio innanzitutto Filippo Reggio, Alessandro Marco Tulli da Roma, Alessandro Chiappini, Fabrizio Intonti da Roma e... No, scusate, Oreggio e Marco Tulli sono a Milano, Chiappini e Intonti sono a Roma. Io sto a casa mia, quindi immagino di vederli anche se non li vedo. E abbiamo Marco da Monza, primo ascoltatore. Marco da Monza, poi risentiamo il nostro ospite. Marco. Sì, buongiorno. Intanto sono contento che c'è Ivan Zazzaroni con voi, perché io considero una persona equilibratissima in questo senso. Ma lui secondo me ha detto delle cose molto importanti. Io intanto ieri ho visto la partita e ero entusiasta, era da tanto che non vedevo una partita così ben disposta da parte dei giocatori, cioè non c'erano le sceneggiate che si vedono solitamente. Questo secondo me è stato molto importante. Poi, ma questo conferma che... quello che ci ha detto Ivan Zazzaroni, che ci sta ascoltando, il direttore del Corriere dello Sport, adesso lo faremo subito intervenire, che in realtà ha ridato centralità e visibilità all'aspetto emozionale, carnale, tecnico dei calciatori. Non voglio entrare in questi territori e poi dico cazzate come ho detto all'inizio, però in effetti erano più protagonisti, non c'era l'attenzione sul pubblico, che comunque aveva una parte importante nella rappresentazione cerimoniale della partita, quindi erano veri protagonisti. Quindi lei non è stato come molti infastidito dalle bandierine sventolanti, ma si è concentrato sui calciatori, finalmente vedeva, sentiva le loro voci, i loro respiri. Sentiamo Marco da Milano. Marco, no, Mario, scusa, Mario da Milano. Pronto? Sì. Pronto, scusatemi, eccoli qua. Ciao. Vi ascolto. L'ascolto. Io mi domando perché non avete ancora pensato di mettere degli avatar sulle gradinate, affittare il controllo con gli abbonamenti e i biglietti, e il tifoso lo utilizza per manifestare durante la partita. Ci stanno lavorando in Giappone. In Giappone lei sa il fenomeno dei Vocaloid, sono queste bellissime cantanti rappresentate con un ologramma gigantesco, per cui la gente impazzisce, ma in realtà non ci sono, è un ologramma, è una figura di luce. I giapponesi stanno pensando a questo: standotene a casa ti fai rappresentare dal tuo tifoso, puoi fare tutto quello che vuoi allo stadio e quindi dai la tua partecipazione all'elemento corale della partita. Allora, Ivan Zazzaroni, vediamo. A me piace capire come vedete voi, che siete, diciamo, i grandi cerimonieri del calcio raccontato e giocato, questo tipo di esperimento. Tu hai detto già all'inizio, vedo l'aspetto catartico, che in questo momento si fermerà un attimo la parte più virulenta del pubblico, però è una sperimentazione che porta comunque a un livello di preoccupante progettualità, di cominciare a pensare a una sorta di campionato parallelo o comunque una serie di partite in cui il pubblico veramente studia altre maniere di partecipare. No, Gianluca, bisogna sostenere l'aspetto della provvisorietà, cioè siamo veramente in una fase provvisoria, finirà, si tornerà a un calcio normale, ce lo auguriamo tutti, vorrebbe dire anche tornare alla normalità, quindi questi sono soltanto dei tentativi di riempire dei vuoti. Quello che ha detto l'ascoltatore di Monza è corretto, c'è minore tensione anche sull'arbitro, infatti le prime tre semifinali sono state arbitrate benissimo. Quindi capisci che l'arbitro viene influenzato anche dalla presenza dei tifosi. Poi è chiaro che torneremo a quel tipo di calcio, un calcio comunque tecnologico attraverso il VAR. Però mi sta dicendo qualcosa che a me vi fa girare molto la fantasia, non essendo io appassionato, sì, di calcio. Può venire fuori, chiamiamolo un altro sport, in cui l'elemento essenziale diventa la tecnica dello sport, le persone che stanno in campo, rispetto a questo elemento fantasmagorico che poi fa parte del calcio, il tifo, sì, la partecipazione, sì, tecnica, le personalità, chiacchiere. Personalità del giocatore, evidentemente, e poi soprattutto centralità della partita. Cioè, la cosa fondamentale è vedere il calcio. È chiaro che oggi sono tornati dopo tre mesi di stop, quindi non era mai successo nella storia del pallone che delle squadre si tornassero a giocare dopo tre mesi di stop, quindi allenamenti fatti sul terrazzo di casa. Però il problema di base è abbiamo avuto un discreto ritmo, una maggiore correttezza, perché non avverti la presenza di 30, 40, 50 mila. ripeto, è un calcio diverso, ma è un calcio provvisorio. Era importante ripartire, perché è un'industria che doveva ripartire assolutamente, se no falliva. Chiaro che devi accontentarti di chiamalo pure irregolare, chiamalo leggermente falsato, come ti pare rispetto al passato, però io ci vedo questa voglia anche di veramente disintossicazione, questa necessità. Però scusami, guarda, Ivan, come noi abbiamo capito tutti che si vive anche senza fare le riunioni, e sì, oggi nessuno di noi tornerà più indietro, andrà a perdere mezze giornate intere per vedere 10 persone attorno a un tavolo, sì, a parlarsi, sì, addosso, dirà, lo facciamo su Zoom così do un, sì, valore al mio tempo. Non può essere che nasca comunque una parte di affezionati a questo tipo di calcio, dice giochiamoci un altro campionato, non voglio togliere a nessuno l'idea che possa essere messo in crisi il grande gioco del calcio, il mercato del calcio, tutto ciò che è dietro al calcio, ma chi veramente è appassionato, i puristi del calcio fine a se stesso, potrebbero pretendere, creiamo un grande stadio virtuale in cui non ci sia più nemmeno bisogno di costruire gli spalti, basta il campo da gioco e un grande green screen dietro in cui proiettiamo quello che vogliamo e vediamo il calcio magari con delle soggettive dei calciatori, sentendo il loro respiro, il loro battito cardiaco, cioè si aprono degli scenari spettacolari inimmaginabili. Questo non lo escludo, nel senso che tu sai che negli ultimi 20 anni il calcio ha avuto diverse declinazioni fantasiose, dal fantacalcio, che è una roba virtuale su base di voti, alla PlayStation, a tutte le varie Xbox o altre cose. Cioè, quando tu hai fatto inizialmente riferimento a quella partita che ho visto peraltro su YouTube, lì c'è una perfezione tale che ti fa delle volte pensare che sia quello il vero calcio. No, io credo che sia difficile smontare l'idea di un calcio tradizionale, ma non escludo che quello che tu dici possa un giorno realizzarsi, cioè stadi più piccoli, stadi più televisivi, meno gente, una visione da casa molto più interattiva, cioè può succedere tutto. Ti ripeto, in questo momento si stanno facendo dei tentativi per riempire dei vuoti, questa è la cosa fondamentale. Possono piacere, possono non piacere, possono. È chiaro che alla gente, se proponi qualcosa di diverso, insomma, la gente la stimoli nel dire mi piace, non mi piace, mi fa schifo, è meraviglioso. Però io ti dico sinceramente, adesso sto guardandola, chiaramente c'è una tensione emotiva inferiore, questo è evidentissimo, però io sono contento. Però gli appassionati si godono di più il gioco, ecco, il gioco te lo godi di più, perché ti piace, sì, godi di più il gioco. Ma quello che ha detto l'ascoltatore Monza è vero, giocano, sono più corretti. I giocatori, quando tu non senti 30, 40, 50, ci sono tanti allenatori che chiedevano addirittura a prendere la preta la bolgia voleva dire l'influenza del pubblico, addirittura noi abbiamo quantificato in punti guadagnati attraverso la presenza del pubblico, nell'Allianz Stadium della Juventus si diceva che portasse dai 8, 10, 15 punti in più perché la gente, gli juventini molto presenti, molto pressanti, e adesso ti ritrovi in una condizione completamente diversa, dove emergono paradossalmente è avvantaggiato che avrebbe giocato fuori casa, si trova, esatto, in una parità di trattamento, c'è più equità, non c'è più questo sbilanciamento che quando c'hai tu che ti sostengono alla fine ti senti più forte. 800 24 00 24, intanto ringrazio Ivan Zazzaroni, ci fermiamo soltanto un istante. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Melog. 800 24 00 24, che ne parlate, che ne pensate di un altro tipo di calcio, magari parallelo, alternativo per dei puristi a quello tradizionale, in cui non c'è il pubblico, in cui anche lo spettacolo televisivo porta in primissimo piano i calciatori, le loro emozioni, il gioco che si svolge sul campo, senza bisogno di interferenze da parte di un coro umano che bene o male influisce poi anche nell'andamento della partita, o in alternativa crea degli strumenti di partecipazione delocalizzata da parte delle persone, quindi creare comunque un fantasioso spalto pieno di persone, uno potrebbe anche riempirle con avatar, con alieni, con figure antropomorfe, con esseri mitologici, con supereroi. A questo punto, se può essere dato spazio alla fantasia, alla ricostruzione virtuale, tutto va bene. 800 24 00 24, aspetto i vostri pareri, che saranno commentati ancora da Ivan Zazzaroni, che si è fermato ancora con noi. Giuseppe da Roma. Salve a tutti quanti. Io allora, velocemente, sono a Roma, però sono napoletano e non seguo assolutamente il calcio perché è uno sport che non mi interessa. Però ieri, non solo perché giocava in Napoli, ma anche per la particolarità, ho voluto seguire la partita. E come hanno detto diversi già che hanno preparato prima di me, effettivamente la partita di ieri è stata, diciamo, devo dire, perfetta. Io me la sono veramente per la prima volta forse goduto, perché effettivamente i giocatori, diciamo, che giocavano in maniera più professionale. Ma la cosa che mi ha colpito non è tanto... Quindi scusi Giuseppe, la fermo solo un secondo. Quindi sì, il suo pregiudizio di base di non seguire il calcio è dato dal fatto che lei forse era inconsapevolmente disturbato dalla partecipazione dagli spalti. Bravissimo. Difatti volevo aggiungere che non solo non mi ha interessato la non presenza del pubblico, almeno per quanto riguarda me, ma mi ha molto interessato invece la parte, vuol dire, aver sentito per la prima volta il parlare, il vociare, anche l'urlare sia dei giocatori che degli allenatori, cioè tutta una parte molto molto importante delle partite di calcio che forse così, seguendolo sia dalla TV ma anche sullo stadio, non si sente. E quindi io ho ascoltato le voci dei giocatori, cosa si dicevano tra di loro, ho capito anche da non tifoso come in realtà veramente una partita vera viene giocata, cioè che c'è una partecipazione non soltanto di gambe e di piedi, ma di cervello e di voci, quindi c'è una partecipazione molto molto intensa. E oggi devo dire, mi ha anche appassionato così il calcio, in questa maniera mi ha appassionato. E quindi devo fermo dire un attimo, Giuseppe, fermo un attimo. Ivan Zazzaroni, vedi che però io sto notando, il mio non è un pubblico di appassionati di calcio, perché non parlo quasi mai di calcio. Le persone che non seguono normalmente il calcio ritrovano una passione per il gioco in questo contatto epidermico con i veri protagonisti. Hai detto perfettamente, la passione per il gioco, l'assenza dell'iper, è un iperrealismo, se vogliamo, no? E tutte le sovrastrutture, le coreografie, le esultanze fatte a cagnolino, tutte quelle cose che i calciatori aggiungevano al calcio non sono più. Non sono più, cioè, è la morte del bar dello sport come elemento arcaico, no, di contorno, no, no, a una non partita. È quello, ripeto, ti parlavo di un calcio primitivo, è il calcio. Cioè, oggi ti concentri sulla partita, sulla parte tecnica, e non hai tutte quelle cosettine che ti fanno entusiasmare alcune persone, a me non entusiasmano più ormai, quelli e i baci, gli abbracci e le orecchie, le altre cose dopo un gol. Adesso un abbraccio, tac, si va. La tensione sicuramente emotiva è minore, lo ripeto. Però ricordiamo sempre che parliamo di un calcio provvisorio che però può portare, secondo me, a qualcosa di buono, non a qualcosa di cattivo. C'è un altro aspetto che secondo me è fondamentale. Oggi io spero che capiscano i presidenti che la televisione è troppo forte rispetto allo stadio vecchio, obsoleto, complicato, con accessi complicati, con difficoltà, con episodi di violenza. Cioè, se faranno stadi anche più piccoli, molto più accessibili, molto più comodi, concorrenziali con la televisione, secondo me avremo qualcosa di meglio. Questo è un momento importante di riflessione. Anche perché la televisione abbiamo capito che il pubblico non serve. Cioè, se io fossi un produttore televisivo, direi, io organizzo il mio stadio virtuale, me lo costruisco con tutti gli effetti possibili, e ti dico, perché sono malato da questo punto di vista, metterei dei sensori sui giocatori, delle microtelecamere, vorrei le soggettive di ogni giocatore, vorrei sentire il suo fiato, il suo battito cardiaco, vi do uno spettacolo fantastico, fatto per la televisione, che però evita tutti i problemi di contorno, la gente vuole andare alla partita perché vuole sentire l'odore della tifoseria, fare altre cose. Sentiamo Elenio da Bergamo. Elenio, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è appassionato di calcio? Premetto che mi chiamo Elenio Bergomi, quindi sono abbastanza appassionato di calcio perché ho questo nome che porto da 50 cioè, anni. Diciamo, è una questione genetica. Sì, infatti, anche perché mio padre mi ha trasmesso questa passione per il calcio. Ce l'ha chiamato Elenio. E anche Bergomi di cognome, tra l'altro, quindi sì. Mi sono trovato due nomi importanti sulle spalle. E quindi comunque, devo per forza essere appassionato. Al di là di tutto volevo semplicemente dare un contributo dicendo che io da ex giocatore di calcio e da ex ciclista trovo assolutamente impensabile portare avanti un'idea di calcio e di sport senza il pubblico, perché il pubblico ti permette di avere quella carica agonistica che in un allenamento o in una palestra a porte chiuse non puoi assolutamente avere, quindi anche il rendimento dei calciatori e dei giocatori in generale è molto molto inferiore. Diciamo, gli manca la carica, calciatori. Sei d'accordo, Zazzarodi? I calciatori rendono meno perché non si sentono incitati? No, ma assolutamente, ma io non sto dicendo che preferisco il calcio senza pubblico, sto dicendo che in questo momento mi sta bene perché è ripartito, ma è chiaro che sono calciatori, penso a Ronaldo per esempio, vive e gioca per la gente. Perché questa gente lo fa anche guadagnare da questo punto di vista. Ci sono giocatori che vengono influenzati dal comportamento, ma nei comportamenti anche dalla presenza del pubblico. Quindi è chiaro che il calcio vuole il pubblico. Sarebbe bello se fosse un pubblico un pochino depurato, ecco, da questo punto di vista. Magari, chissà, magari questo tipo di situazione provvisoria può arrivare, può portarci a quel tipo di conclusione. Sentiamo Antonio da Pavia, che c'ha una lettura molto pesante, però efficace. Antonio? No, pesante, adesso è un po' eccessivo. Saluti a Zazzaroni, perché è un gran signore, l'ha dimostrato nel passato. Dico questo, da come sta venendo fuori il discorso, sembra che praticamente lo spacciatore sta all'eroina come il tifoso sta al calcio. Insomma, io un calcio senza tifosi non me l'immagino, è chiaro, il ragionamento. Cioè, il doping del calcio è il tifoso che ti strilla addosso. Viene fuori questo, poi senza togliere il fatto che ci sono centinaia di, tra virgolette, professionalità che vengono meno. Penso ai marinari, penso ai venditori di bandiere, penso ai bibitari, e questo è uno di quei casi in cui, francamente, un bibitaro lo preferisco. Cioè, vuol dire, i bibitari, se poi rimangono senza lavoro, si rischia che si mettano in politica, questo vorrebbe dire. L'hai detto tu, va benissimo. No, era chiarissimo. Zazzaroni, siamo in conclusione. Secondo te, lo vedi come una sorta di l'umanità si evolve, cambia i suoi rituali, cambia le sue abitudini. Il calcio e lo sport senza pubblico festante, urlante, che è un retaggio veramente molto arcaico, ma epico, secondo te sarà qualcosa che sarà proponibile come spettacolo del futuro? Lo è già, in Italia lo è già, nel senso che noi abbiamo gli stadi semi vuoti, a parte Milano, a parte Torino e poco altro, quindi già c'è una parte di pubblico che non si presenta allo stadio, ma io sono per il pubblico, che ci mancherebbe, mica sono scemo, cioè gli stadi devono essere pieni di gente, sì. Ho detto semplicemente che visto gli ultimi anni, ma in particolare gli ultimi mesi, ci hanno portato delle manifestazioni che non accetto, adesso mi sta bene di riposare un pochino il cervello. Mi sembra chiaro, mi sembra tranquillo, grazie Ivan Zazzaroni, alla prossima.